io per la strada al freddo, ma non è questo che mi fa triste. Qui fuori dai tuoi sogni l'amore sta morendo, ognuno pensa solo a se stesso. Freddo a base di uova ripiene, prosciutto, toast, caviale, acquavite e champagne che il segretariato politico è solito consumare nel salone delle feste all'inizio della seduta, N si presenta per primo nella sala di riunione. Da quando sono entrata a far parte del consesso supremo mi sento al sicuro soltanto in questa sala. Anche se sono solo ministro delle poste, i francobolli per la conferenza della pace sono piaciuti ad A. Come N sa, per sentito dire dalla cerchia intorno a D, il segretario del partito, e con maggiore attendibilità da E, ministro del commercio con l'estero. Ma i predecessori di N erano scomparsi senza lasciare tracce. E anche se C, il capo della polizia segreta, mi tratta con molta gentilezza. Non è consigliabile indagare su dispersi. Prima di entrare nel salone delle feste e prima di entrare nella sala di riunione, N è già stato perquisito la prima volta dal tenente colonnello dall'area sportiva, la seconda da un colonnello biondo. Biondo altissimo! Bellissimo, che N non aveva mai visto. Il colonnello che lo faceva sempre doveva essere in ferie, trasferito. O dimesso. Degradato. Fucilato. Poso la borsa sul tavolo centrale. Una borsa orribile, stracolma di documenti. Vabbè, poso la borsa sul tavolo centrale e mi siedo. L, ministro dei trasporti, li siede accanto. Sempre ubriaco. La sala è lunga, non molto più larga dello stesso tavolo. Le pareti sono rivestite di legno bruno fino a metà altezza. La parte scoperta delle pareti e il soffitto sono bianchi. I posti a sedere vengono assegnati secondo la gerarchia del sistema. A siede a capo tavola. Sopra di lui è appesa la bandiera del partito. Di fronte, l'altro capo della tavola resta vuoto. Ed è lì che si trova l'unica finestra. È una finestra alta, arcuata all'apice, divisa in 5 scomparti. B, D, F, H, K, M siedono lungo il lato destro del tavolo, naturalmente visti dal punto di vista di A. Di fronte a loro siedono C, E, G, I, L, N. Accanto ad N siede P e accanto ad M il ministro dell'energia atomica, O. Dunque, ricapitolando: A, capo del governo, cui estremamente alto. B, ministro degli esteri. C, la zia di Stato. Il capo della polizia segreta. D, il segretario del partito. Il cinghiale. E, ministro del commercio con l'estero. F, ministro dell'industria pesante, lustra scarpe. Il leccapiedi. G, l'ideologo. Il santo del tè. H, K, marescialli di Stato, sempre ubriachi. I due Johnny Walker. Gonfi, smorti e tappezzati di decorazioni. Due sacchi pieni zeppi di lardo, di urina e di terrore. I, ministro dell'agricoltura. L, ministro dei trasporti. E la musa del partito, M, la ministressa dell'educazione. N, ministro delle poste. E infine P, il capo dei gruppi giovanili. E O, che è assente. L, ministro dei trasporti, è il più anziano del consesso. Prima di diventare rivoluzionario faceva il fabbro. È largo di spalle, il volto e le mani rozze, il colletto della sua camicia sempre abbottonato. L è molto popolare nel partito e nel paese. Si sono create delle leggende intorno alle sue gesta durante l'insurrezione di giugno, ma quei tempi sono così lontani che A lo chiama il monumento. L è considerato un eroe, così il suo calo politico non è stato un crollo spettacolare, ma uno sprofondare progressivo in seno alla gerarchia. E ora, Il terrore di una denuncia lo perseguita. L sa che un giorno o l'altro cadrà. Come due marescialli a HK. È sempre ubriaco, anche durante le sedute del segretariato politico. Perfino adesso, mentre mi parla, il suo fiato puzza di acquavite e champagne. Compagno mi fa, siamo liquidati. Oh, non è venuto. Io non rispondo, io non ho nemmeno un sobbalzo. Forse l'arresto di O è solo una voce, forse L si sbaglia, e se non si sbaglia, la mia situazione non è disperata come quella di L. Infatti, quando qualcosa non funziona nell'industria pesante, oppure nell'agricoltura, o nel rifornimento di energia convenzionale o atomica... E qualcosa che non funziona c'è sempre. Guasti, ritardi, arresti. La responsabilità ricade sempre sul ministro dei trasporti. Beh, quando li cucini insieme nello stufato, è difficile distinguere il gatto dal coniglio. Entra D, il segretario del partito, e il ministro I. Il segretario del partito è... massiccio, abbastanza intelligente. Porta un abito ispirato a quello di A. Secondo alcuni per servilismo. Secondo altri per derisione. Il ministro I è... gracile, ha capelli rossi. Un tipo molto risoluto. Disprezzo l'ex procuratore generale, la sua grinta da leguleio lentiginoso mi è insopportabile. Durante la prima grossa purga, quando I era già procuratore generale, era riuscito a far ratificare le condanne a morte contro tutti i vecchi capi rivoluzionari. Ma aveva commesso un errore. Su desiderio di A, aveva preteso la pena di morte anche del genero di quest'ultimo, e quando A intervenne inaspettatamente a perdonare all'ultimo istante il suo genero, questi era già stato fucilato. Una svista che non solo era costata a D la carica di procuratore generale, ma peggio ancora, lo aveva portato al potere. Era stato nominato membro del segretariato, cioè inserito nella più comoda di tutte le liste, quella dei fucilabili. E A non si è mai lasciato sfuggire un'occasione per liquidare qualcuno. Ormai I lo si dà per spacciato. E lui lo sa, specie da quando ha dovuto assumersi il Ministero dell'Agricoltura, e in agricoltura il partito si sa. Fa fatalmente fiasco. I contadini, si sa, sono ineducabili, pigri, egoisti. Io odio i contadini, ma non in se stessi, no. Perché costituiscono un problema insolubile che fa alzare bandiera bianca ai pianificatori. E siccome qui ogni sconfitta è un pericolo mortale, io odio doppiamente i contadini. Il gatto prende sempre in giro l'asino, ma non è lui a tirare l'aratro. Il mio odio è tale da riuscire perfino a comprendere l'atteggiamento di I. Ma chi è che ha mai voglia di parlare di contadini? Solo F, che come suo padre ha fatto il maestro elementare. Maestrino di campagna. Lui sembra un contadino e parla di contadini in pieno segretariato politico, sfoderando barzellette sui contadini che fanno ridere lui solo e detti campagnoli che capisce solo lui. Il ratto capisce di essere in pericolo soltanto quando è nello stomaco del gatto. N invece ammira la condotta di D. Nonostante tutto il suo potere e la sua intelligenza politica, certo il cinghiale, come lo chiama A, ha anche paura. E se la notizia dell'assenza di O dovesse rivelarsi esatta? Ma malgrado la sua posizione sia incerta, D si finge indifferente. L'arresto di O potrebbe preludere un attacco contro D, perché nel partito si sa, O appartiene a D. Però potrebbe preannunciare anche la caduta di G, l'ideologo di cui O è considerato il protetto. L'ideologo? Goffo, porta occhiali polverosi e tiene inclinata da una parte la testa professorale. Il professorino di provincia. Del ginnasio, il santo del tè. G è il teorico della rivoluzione. Astemio, asseta con il colletto alla Robespierre. In G ogni passo è calcolato e non di rado sfocia nel gusto dell'assurdo e del sanguinario. Naturalmente D e G si contrastano, ostili. Si danneggiano a vicenda, si tendono trappole e cercano di rovinarsi l'un l'altro. Il cinghiale D, tecnico del potere, fronteggia l'ideologo G, teorico della rivoluzione. D vuole conservare il potere con ogni mezzo. G con ogni mezzo vuole conservarlo puro, cristallino. Cristallino, come uno scalpello sterilizzato in mano ad una dottrina immacolata. E ora le fazioni. Al cinghiale D sono legati il ministro degli esteri B. Il primo alla sinistra di A, dalla vostra prospettiva. La ministressa penultima, sempre alla sinistra di A, dalla vostra prospettiva. E il terz'ultimo alla destra di A, il ministro dei trasporti L. Sempre dalla vostra prospettiva. Dalla parte dell'ideologo G si schierano il ministro dell'agricoltura I, il capo di stato maggiore K e il ministro dell'industria pesante F. Non certo inferiore a D in fatto di brutalità, ma che tuttavia per quella avversione che solo un ossessionato dal potere nutre verso un altro ossessionato dal potere, si schiera dalla parte di G. Ora, il fatto che l'ideologo stia salutando il segretario del partito denuncia in un certo senso la sua paura che con l'arresto di O possa essere in pericolo, così come il fatto che il segretario del partito D risponda al saluto palesa il suo timore di essere in pericolo? Tuttavia, il fatto che l'ideologo abbia salutato cordialmente il cinghiale invece solo gentilmente sta a indicare che il pericolo in cui versa il primo, G, sia di una sfumatura più probabile di quello in cui versa il secondo, D. La caduta di D potrebbe mettere in difficoltà anche me, perché su consiglio del cinghiale sono stato nominato come membro con diritto di voto. Però in fondo non sono che un esperto nel mio campo, e quindi sono innocuo sia per D che per G. E sono talmente... insignificante? Sì, insignificante agli occhi di A, da non aver avuto nemmeno un soprannome. Anche il ministro del commercio con l'estero E è un esperto. Uomo di mondo, che eleganza! Indossa un abito inglese con taschino e un fazzoletto ripiegato all'interno. Come N è diventato membro del segretariato politico senza neanche volerlo. Ma nella sua qualità di esperto è uscita indenne da ogni epurazione. Tanto che A lo chiama Lord Evergreen. Se N è volontariamente il numero 13 dell'impero. E altrettanto involontariamente è il numero 5. 5. Impossibile tornare indietro. Un contegno sbagliato, un'informazione imprudente possono causare la fine. Interrogatori. Arresti. Morte. È per questo che ed io dobbiamo mantenere i buoni rapporti con chiunque sia più potente di noi. Dobbiamo abbassare il capo se necessario. Siamo costretti a fare molte cose indecorose e ridicole. Passerotto. Se ne sta zitto solo quando arriva lo sparviero. Ed è naturale. I 13 del segretariato politico hanno un potere immane. Decidono le sorti di un impero immenso. Mandano innumerevoli persone in esilio. Fanno nascere industrie intere dal nulla. Deportano famiglie e popoli. Fondano città. Reclutano immensi eserciti. Impongono la guerra o la pace. Alle Tegove Hovania, Srobige Onisi spiano a vicenda. I Fescegozuni Lubium Ignelubium, Jesuducio Viensni Mozni od... Tutti i conflitti politici e le circostanze economiche cui si trovano di fronte. Il potere ed il terrore reciproco sono troppo grandi, ce bebeva cesta politica. La ragione, mie moje ve grazie. Il Bordeaux. Il Bordeaux. Lo dovevo dare ad F, il Bordeaux. Era cominciata così, che D, il segretario del partito, amava bere Bordeaux e che N aveva organizzato qualche spedizione di vino in occasione del congresso internazionale dei ministri delle poste a Parigi. Non posso, ancora non è arrivato il carico, il Bordeaux. Quando poi N scoprì che anche F, gran bevitore di acquavite nazionale, dato che soffriva di diabete, consumava di nascosto soltanto Bordeaux, N esitò a lungo prima di regalare del Bordeaux anche ad F, perché in tal modo avrebbe ammesso di essere a conoscenza della sua malattia. Eh sì, diabete, il Bordeaux. Ma d'altro canto aveva ricevuto l'informazione dal capo della polizia segreta C ed era impossibile che non lo sapessero tutti. Così ho deciso di regalare ad F una cassetta di Lafitte del 45. Lui si è sdebitato immediatamente. Ho aperto il pacco, era... conteneva un VHS. Il titolo era Scene dalla Rivoluzione Francese. L'ho proiettato davanti a mia moglie e ai miei quattro figli. Era film pornografico. non c'è niente che unisca come del buon cinema. Regali analoghi li ricevevano altri membri del segretariato. Lo venni a sapere più tardi. Ma io ne faccio dono per avere in mano un'arma di pressione e mi comporto come se il destinatario ami la pornografia. A proposito, le è piaciuta quella porcheriola? Veramente non incontra i miei interessi, ma so che a lei queste cose piacciono molto. Non ho osato contraddirle così per ricambiare. Gli ho regalato una cassetta di Chateau Pape Clément del 34. E così, a casa di N, uomo sobrio e di scarso erotismo, continua ad accumularsi materiale pornografico. E lui si trova a dover procurare dell'altro Bordeaux per me e per D. Ma i rifornimenti da Parigi arrivano ogni 6 mesi. Sì. E così ha a che fare con il ministro per il commercio con l'estero e... Ah, quindi anche lei rifornisce di... No, rifornisce di Bordeaux, sì. Sia il lustrascarpe, il cinghiale, sì, ma... No, eh? Ma non è che potrebbe essermi d'aiuto, magari? No, ma ho i suoi rapporti commerciali con l'estero. Vabbè, ma mi scusi, mi scusi. La musa del partito. M è imponente, le sue poppe. Le sue poppe sono dei monti dalla cui cima il segretario del partito D potrebbe precipitare mortalmente, dice A ogni tanto, e con quella pesante volgarità minaccia il cinghiale. Corre voce, infatti, che D sia l'amante di M. Il fatto che M si sia presentata con quest'abito da cocktail e quest'ampia scollatura mi turba. Il motivo deve essere eccezionale. Ah, certo, l'arresto di O. Accidenti! Questo sì che è un vestito delizioso, M! Fantastico! Qualcosa di diverso dalla solita uniforme che si indossa nel partito! Al diavolo le divise, no? Perché mai si è fatta la rivoluzione? Perché si sono eliminati i plutocrati e le sanguisughe? Perché si sono impiccati i grossi proprietari carrieri agli alberi di ciliegio? Per fare spazio alla bellezza Christian Dior! Dai lavoratori! Il macabro umorismo di F potrebbe essere dovuto dal timore che l'arresto di O possa ricadere su di lui. Ma prima ancora che N possa chiedersi se la scomparsa di O sia un pericolo anche per lui, B si alza. L'autorità di B è indiscussa. Anche se tutti lo odiano. Il nostro amico B, il nostro genio! Il nostro ministro degli esteri! Parla tedesco e inglese! Il russo, il polacco! Anche l'italiano! Alla perfezione! Mazzarino tradotta in tutte le lingue del mondo! Il suo saggio, la moderazione cinese! La moderazione deve solo che il champagne! Signore e signori, mi sembra ovvio che il ministro dell'energia atomica O non si presenterà. L'arresto di O non è più una diceria. È impossibile che B voglia dire qualcos'altro. N beve. F si alza, controlla l'orologio, si risiede. M si incipa il naso. G si alza, spolvera gli occhiali. D si attorciglia la barba e beve. M si alza. Si è accorta solo adesso di avere il rossetto del colore sbagliato. F si alza, si sistema la cintura, si risiede. G si alza, si risiede, accavalla le gambe. D si alza e si... Silenzio improvviso. A e C entrano nella sala. Non arrossire quando ti guardo, ma ferma il tuo cuore che trema per me. Ci indossa come al solito il suo panciotto grigio. Trasandato. Ha iniziato come capo nei gruppi giovanili. Ma è stato allontanato dall'incarico. Non per motivi politici. Le denunce sono di altra natura. Ed eccolo qua, che è rispuntato come... Come capo della polizia segreta. Che sia coinvolto in faccende omosessuali. È fuori di dubbio. Ma da va bene così. Ci è stranamente piacevole. La crudeltà dei suoi metodi è sinistramente nota. Molti sostengono che ci non abbia altra scelta. Perché A... lo tiene in pugno. Certo è che sotto la regia di questo esteta omosessuale la polizia segreta è diventata molto più potente. Spesso perfino timido. Omosessuale. A, invece, non è affatto complicato. La semplicità è la sua forza, il potere non è un problema per lui, la violenza gli è completamente naturale. Vivo da anni in un semplice edificio simile a un bunker, nascosto in una foresta fuori della capitale. Mi reco al palazzo di governo solo in occasione di visite di capi di stato stranieri e naturalmente per le sedute del segretariato politico, ma ogni componente deve presentarsi al rapporto 3 volte alla settimana, nella mia abitazione. Ah, sfiora la schiena della musa. Abitazione che contiene unicamente un immenso affresco raffigurante il suo villaggio natio. E una scrivania ancora più immensa dietro la quale lui sta seduto e il visitatore rimane in piedi. Talvolta si fa venire delle ragazze dalla città a cui basta che faccia un cenno. E loro non devono fare altro che stare sedute accanto a lui per ore e ore a guardare film americani. Una volta al mese fa chiudere il Museo Nazionale e passeggia per ore intere da solo. Perché se anche l'aragosta cammina all'indietro, è lui quello con le chele più grandi. Sta in devota contemplazione di gigantesche croste storiche tardo-borghesi, davanti a quadri di battaglie, a torvi imperatori che mandano a morte i propri figli, a orge di soldati ubriachi e a slitte trainate da cavalli che sfrecciano inseguite dai lupi. Ah, osserva pensose presenti come fossero un quadro. Lo scopo del partito. Ah, parla lentamente, con ripetizioni, inseguendo una logica penetrante. Partia Cesem. Lo scopo del partito è trasformare la società e ciò che si è raggiunto è imponente. Tuttavia, riesce a Cemovigna? Il popolo. Il popolo pensa ancora secondo vecchie categorie. I membri del segretariato sono immobili, con volti simili a maschere. Schiavo dei pregiudizi, infettato da individualismo. Sono stati avvisati. La rivoluzione è ancora un patrimonio di pochi. Quando A ha in mente qualcosa, inizia con considerazioni sulla rivoluzione. L'ordine rivoluzionario può mantenersi solo con la violenza, solo attraverso la dittatura del partito. Ma anche il partito si dissolverebbe se non fosse organizzato dall'alto in basso, per cui la creazione del segretariato politico è stata una necessità storica. Ah, interrompe il discorso e si aggiusta i polsini. Ma perché bisogna sempre cominciare con una scuola di indottrinamento politico prima di andare al sodo, al pericoloso? Intanto Ah, è arrivato al sodo. Ogni progresso raggiunto esige ora un cambiamento nel partito. Il partito dovrà cambiare lo Stato, poiché lo Stato non può rivoluzionare se stesso. Questo può farlo solo il partito, secondo le nuove esigenze della rivoluzione. Ora, la struttura del partito è ancora gerarchica, guidata dall'alto, il che corrisponde al periodo di lotta che il partito ha dovuto attraversare. Alevies, Jakvegras, quel tempo è ormai passato. Il passo successivo? La democratizzazione del partito. Ma il partito può essere democratizzato solo se si delega il suo potere a un parlamento partitico allargato. Dunque, il segretariato politico, Politicne Segretariatum, va, ma bec, liquidato. È ovvio che c'è un pericolo che minaccia indirettamente tutti e direttamente nessuno. Il discorso di A è solo apparentemente logico, ma in realtà quel discorso contiene una contraddizione. A vuole spodestare il partito democratizzandolo. Con un parlamento fantoccio diventerà più potente che mai. Infatti, all'inizio ho parlato della necessità della violenza. Sembra che A voglia liquidare chiunque voglia opporsi. Se A immagina la presenza di tali elementi nel segretariato politico, l'arresto di O diventa verosimile. Ma prima ancora che N possa chiedersi se egli stesso rappresenti un pericolo per A, accade un fatto del tutto inaspettato. L prende la parola senza averla chiesta. Fa notare che O è assente e quindi la seduta del segretariato non ha mai avuto inizio. Peccato per lo splendido discorso di A, dice. Ma è regolamento anche per i rivoluzionari. A ha lanciato una rapida occhiata a C. Forse la notizia dell'arresto di O deriva direttamente dal capo della polizia segreta e magari è stata data contro il volere di A. È indifferente se O sia intervenuto o meno, e anche il motivo della sua assenza mi è indifferente. O è soltanto un aspirante senza diritto di voto e la presente seduta non deve deliberare altro che lo scioglimento del segretariato politico. E visto che non si è alzata nessuna voce contraria, signori, la cosa è ormai decisa. L sta per lasciarsi cadere sulla sedia quando il capo della polizia segreta C fa notare seccamente che il ministro dell'energia atomica O è assente solo per motivi di salute. Una malattia? Eh? Davvero una malattia? Una malattia! D'improvviso appare sulla porta il colonnello e, con grande sorpresa di tutti, invita L a uscire per una faccenda personale e urgentissima. Sparisci! Sparisci! Il colonnello esce. È ormai ovvio che il monumento ha alzato di nuovo troppo il gomito. Monumento, che aspetti a uscire? Ha forse partorito una delle tue amanti? Che cos'è accaduto? Il colonnello risponde che la moglie del ministro dei trasporti è moribonda. Elle, ritiro immediatamente il mio scherzo grossolano sulle tue amanti. So che per te tua moglie è importante. Va da lei, vai. Del resto la seduta è terminata. Io sono un vecchio rivoluzionario, io. Mia moglie, certo che all'ospedale, lo sanno tutti. Il suo furore ha qualcosa di grandioso. Ero nel partito fin dall'origine. Ho lavorato per il partito quando era pericoloso, io. Sembra di nuovo il famoso rivoluzionario di un tempo. Sono stato persino condannato a morte. Il plotone d'esecuzione era già schierato, compagni. Io ho fatto la storia. Ah, il potere mi ha sedotto, compagni. Quanti amici ho tradito? Oh, è stato arrestato. E io non uscirò da questa stanza perché fuori vogliono arrestare anche me. Mentre gli altri assistono alla fine di un gigante, mentre H urla a morte i nemici del partito, mentre K, il capo di stato maggiore, giura la sua imperitura fedeltà ad A, mentre accade tutto questo, A è un tattico astutissimo e nessuno è all'altezza delle sue mosse sulla scacchiera del potere. Nemmeno B, il nostro ministro degli esteri. A è un conoscitore di uomini per istinto ed è abile nella caccia e nella cattura dell'uomo come nessun altro nel segretariato politico. Non è portato al duello in campo aperto e ha bisogno di attaccare da dove meno se lo aspetta. Tende le sue trappole all'interno della giungla del partito, con le sue innumerevoli sezioni e sottosezioni, gruppi e sottogruppi, e branche e sottobranche. Mentre gli altri assistono alla fine di un gigante, mentre H urla a morte nemici del partito, mentre K, il capo di stato maggiore, giura la sua imperitura fedeltà ad A, mentre accade tutto questo, F interrompe L. Quando anche il bue si rifiuta di cedere alla frusta, forse è il caso di farsi una bella bistecca. Compagni, come figlio di un maestro rurale mi sono fatto faticosamente una posizione. Entrato presto nel partito, sfottuto, umiliato in vari modi, utilizzato come un lacchè, ho fatto carriera. Perché non ho orgoglio, ma solo ambizioni. È perché sono capace di tutto. Ho fatto i lavori più sporchi, con cieca obbedienza, disposto a qualunque tradimento. Compagni, quando la volpe attacca, le galline alzano la cresta. Compagni, noi siamo tutti figli della grande rivoluzione. Anche i pulcini, quando diventano galli, non si scordano della chioccia. L dubita della parola di A, compagni, dimostrando di credere che O non sia malato, ma in arresto. La sua diffidenza è tale che non osa nemmeno abbandonare questa sala per assistere sua moglie morente, compagni. Perfino l'amantide religiosa saluta il marito prima di accopparlo, compagni. Questo è un atto così terrificante che dovrebbe far inorridire ogni rivoluzionario per il quale il matrimonio sia ancora qualcosa di sacro, compagni. Compagni, questa è un'offesa non solo per A, ma per tutto il segretariato, compagni. La musa del partito gli volta le spalle. Eh già, la vergine, quando va a casa del mastro di cavalli, ne esce puttana. Poi F si rivolge al segretario del partito. E quando i contadini muoiono di fame, il Pope si rimpizza. Passa al ministro delle poste N e al capo dei gruppi giovanili P. I nanni vanno sempre in coppia. Già, è il falco che sta sempre in cielo. Ma prima che possa citare un altro dei suoi proverbi... Non è il pesce di luglio che fa differenza. Il colonnello entra per la seconda volta e dà un biglietto a F. F lo apre, lo sgualcisce e se lo rimette in tasca. Io non vorrei essere stato frainteso. La seconda apparizione del colonnello sembra una messa in scena. Il fatto è inquietante. D'improvviso prende la parola il capo della polizia segreta C. F, hai finito di dire sciocchezze? Il segretariato sta lavorando. Ho urgenza di telefonare al ministero. Scusate, ma questa rogna necessita del mio intervento. Puoi telefonare di là, F. E anche tu, L, dovresti almeno telefonare in ospedale. Interrompiamo la seduta per soli 5 minuti, hm? Ma poi non voglio più essere disturbato. E chi è quell'idiota di un colonnello? È uno nuovo. Colonnello, sparisci e non tornare mai più. Il colonnello esce, ma né F né L escono dalla sala. F, perché non vai a telefonare? È lodevole, amico F, che ti stia così a cuore il benessere della rivoluzione, ma proprio per questo devi pensare al tuo dovere e metterti subito in contatto con il tuo ministero. Ma la seduta non era terminata? Adesso A ha deciso di farla continuare. Noi finora ci siamo sempre limitati ad approvare in silenzio. La decisione di A deve avere un altro motivo. Forse si è accorto di aver commesso un errore. Sì, avrebbe dovuto prima epurare il segretariato e poi abolirlo. Anzi, no, meglio. Prima abolirlo e poi eliminarne i singoli componenti. Sì. L'arresto di O ha messo tutti sull'avviso e ora tutti hanno paura. Insomma, una semplice scaramuccia minaccia di trasformarsi in una battaglia decisiva. A tutta prima non accade nulla. F si siede. N si asciugherebbe volentieri il sudore dalla fronte, ma non osa farlo. P intreccia le mani. Vorrebbe pregare, anche se è verosimile che un membro del segretariato preghi. Al maresciallo K viene il singhiozzo. M prende il portasigarette. D le si avvicina e le porge il suo accendino, restando in piedi alle sue spalle. Dite un po', voi due, andate a letto insieme? Un tempo, sì. È un bene che i miei collaboratori si intendano tra loro. Dai, lustra scarpe, vai a telefonare. No, io non esco da questa sala. Secondo me hai paura. Infatti, ho paura. Ho molta paura. Ma qui abbiamo tutti paura. Non solo io e il ministro dei trasporti. Tutti. Sciocchezze. Assurdità. Allora perché non esci tu dalla sala? E che cosa dovrei andare a fare là fuori? Lo vedi? Perfino il nostro ideologo ha paura. Sciocchezze. Assurdità. Sciocchezze. Sei un pazzo. Sarei un pazzo, davvero. Ne sei così sicuro? Non c'è più nessun vecchio rivoluzionario nel segretariato politico. Tranne L, forse. Che fine hanno fatto gli altri? Eh? Art Spiegelman. Ed F inizia a enumerare i nomi dei liquidati. Andrei Gulaschi. Jovan Minich. Lentamente, con cura. Il professor Sileski. Petko Slavov. Dmitri Sapkowski. Uomini che un tempo erano stati famosi. Jotam Perel. Thomas Kaniev. Era la prima volta che qualcuno osava fare quei nomi. N rabbrividisce. Gli sembra un tratto di trovarsi in un cimitero. Il compagno Steiner, Stephen Koch. Quelli erano traditori e tu lo sai benissimo. E anche tu sei un porco, come loro. È un altro errore. F ha paura. F è pericoloso, ma Ma si comporta con leggerezza. Chi sbarra la strada alla rivoluzione viene annientato. E infatti quelli che ci hanno provato sono stati annientati. Davvero, ci hanno provato. E hanno confessato. Confessato? E come avrebbero confessato? Ce lo vogliamo far dire dal capo della polizia segreta? La rivoluzione è un lavoro cruento. Ma del resto è inutile parlarne. Evidentemente a Lustrascarpe hanno dato alla testa le pellicole pornografiche che distribuisce. Certo, pensando che il partito sia un bordello. Ti prego, caro G, di fare attenzione a chi frequenti. La seduta è di nuovo aperta. Devo ringraziare A per le cose dette all'inizio della seduta. La sua analisi sullo stato attuale della rivoluzione è magistrale ed è più che convincente la conclusione di sciogliere il segretariato politico. Ma da ideologo devo osservare una cosa. Come A ci ha appena dimostrato, ci si trova di fronte a un conflitto. La rivoluzione viene a contrapporsi allo Stato, ma in realtà anche al partito. Infatti, rivoluzione e partito non sono la stessa cosa, come molti di voi credono. La rivoluzione è un fatto dinamico, il partito è una forma statica. La rivoluzione trasforma la società, il partito la inquadra. Ecco perché la rivoluzione ha divorato tutti quelli che hanno scelto il partito, diventando nemici della rivoluzione. E oggi succede esattamente la stessa cosa, che il segretariato politico si è appropriato di tutto il potere, perché mantenere il proprio potere gli sembra più importante di qualsiasi trasformazione del mondo. Pertanto la lotta contro il segretariato politica è inevitabile, una necessità che il segretariato stesso deve riconoscere sciogliendosi spontaneamente. Come si dice, un vero rivoluzionario si liquida da sé. È un discorso insidioso, sì, è insidioso. G, con queste frasi astratte, sottolinea le intenzioni di A in modo che il segretariato possa mettersi sulla difensiva. Sì, e dà anche una giustificazione all'eliminazione della vecchia guardia, così che giustifica anche la prossima purga e rimette nelle mani delle eventuali vittime, le nostre, il decidere se si debba o meno fare, lasciando A in una situazione davvero pericolosa. A si è accorto della trappola in cui G lo ha tirato, ma prima che possa intervenire accade un incidente. Che schifo, capo, sei un porco! Il capo di stato maggiore, vecchio e stanco, ha urinato e dice che lui non è un fesso e che lui non esce da qui perché non ci tiene a essere arrestato, che lui ha lottato e vinto per il partito e perciò piscia dove e quando vuole. Dopo questo penoso e grottesco incidente... Hai fatto... C, hai fatto arrestare O. E probabilmente, dati i tuoi metodi, sarà già stato fucilato da un pezzo. Stranamente le accuse di A si rivolgono a C. È ormai tempo di aprire un'inchiesta su di te, date le tue inclinazioni anormali. Colonnello! Silenzio mortale. Tutti aspettano. Passano diversi minuti. Perché non viene? Il colonnello, perché non viene? Perché gli abbiamo ordinato di non tornare. E sei stato tu stesso a dirgli di non farsi più vedere. Allora, chiedo scusa. In quel momento ho capito che A aveva perso. E per la prima volta ho anche capito il meccanismo politico di A, che solo apparentemente è complesso, ma in realtà è semplicissimo. I funzionari di partito avevano privilegi sui quali circolavano leggende, ma essere potenti era pericoloso e il popolo vedeva i potenti ascendere per grazia di A o precipitare per la sua collera. E non c'era nessun potente che cadesse senza un pubblico processo, ossia senza uno spettacolo sublime. Ma per il popolo tutti quelli che venivano giustiziati erano dei traditori. E la loro fine quindi non faceva nascere soltanto delle nuove speranze, ma dava l'impressione che la rivoluzione continuasse. Per questo A era molto popolare. A poteva mantenere il controllo soltanto se tutti i membri del segretariato politico lottavano fra di loro. La lotta reciproca era il presupposto del suo potere. E la tattica di A era brutale, ma nel corso del tempo si era isolato, dimenticandosi che il terrore non soltanto divide, ma che insegna anche a creare un fronte comune. Inoltre nel tempo si era dimenticato di essersi circondato da fanatici del potere. Ed era come se una tigre abituata a combattere all'interno della giungla si trovasse improvvisamente nella steppa. Nella steppa circondata da una mandria di bufali inferociti. A era capriccioso e i suoi desideri grotteschi. Amava certi scherzi maligni che nessuno apprezzava, ma tutti ne avevano paura. Mi ricordo di quella volta che ha offeso D a morte. E ho sempre pensato che prima o poi gli avrebbe reso la pariglia, perché D non dimentica mai un'umiliazione subita e sa aspettare. Era stato un episodio buffonesco e spettrale. Il cinghiale quella volta aveva ricevuto da A l'incarico di mettere insieme un'orchestrina al femminile che suonasse di fronte a lui nuda. L'ottetto di Schubert in fa minore. Ero furibondo per quell'ordine idiota. Certo, ma troppo vile per rifiutare. Mi sono dovuto rivolgere alla ministra dell'educazione. Ed io mi sono dovuta rivolgere ai conservatori. Anche lei vile. E ai licei musicali. Il problema è che le ragazze non solo dovevano avere una buona formazione musicale, ma anche un bel fisico. E si ebbero crolli, catastrofi, crisi isteriche. Una delle violoncelliste più promettenti si uccise. Altre ancora fecero a gara per essere accettate, ma erano troppo brutte. Finalmente l'orchestra era al completo. Mancava solo la suonatrice di fagotto. Io e la musa del partito ci siamo dovuti rivolgere a C, perché non si riusciva a trovare, che ci ha fatto arrivare direttamente da una casa di correzione una stupenda puttana dal pregevolissimo sedere. Quel fior di ragazza non aveva la minima inclinazione musicale, ma grazie a uno sforzo disumano riuscimmo a insegnarle quel tanto di fagotto necessario per l'ottetto. E finalmente eccole lì, sedute nude nella gelida sala dell'Accademia Filarmonica, a stringersi gli strumenti contro la persona. In prima fila sedevano D e M, avvolti in pellicce, con volti impietriti, in attesa di A, che però non veniva. Intanto la sala barocca si riempiva di centinaia di sordomuti che stavano lì a fissare avidi, ma senza sentire nulla, quelle ragazze svestite che si accanivano come maledette su quegli strumenti ad arpa e a fiato. Alla seduta successiva A rise a crepapelle dando degli imbecilli a DM perché avevano obbedito a un ordine simile. La caduta di A avvenne con freddezza, senza sforzo, in maniera quasi burocratica. La seduta prosegue. Sarà ora interessante sapere chi ha fatto arrestare O. La lista. Così sapremo come stanno veramente le cose. La Gia di Stato apre la borsa e passa il foglio a D. Sulla lista O non c'è, ma ci sono io. D passa il foglio a Lord Evergreen, il quale, dopo avergli dato una rapida occhiata, lo passa al santo del tempo. Sono nella lista! E sì che sono sempre stato un rivoluzionario ortodosso io! Si vede che gli ortodossi sono diventati eretici. G passa il foglio al ministro dell'agricoltura, I, il quale, perché il suo nome non c'è, lo passa a L. Il monumento la fissa, la legge ripetute volte e quasi si mette a piangere perché il suo nome non c'è. N gli dà una rapida occhiata. Il mio nome non c'è! E passa il foglio al capo dei gruppi giovanili, P, che pallido e stravolto balbetta: sono stato nominato procuratore generale! E con la mano tremante passa il foglio alla musa del partito. Io ci sono. M passa la lista ai marescialli, che però stanno sonnecchiando, e quindi passa la lista all'ustrascarpe F. E anch'io ci sono. L'ultimo a ricevere la lista è B, il cui nome non c'è, e quindi restituisce la lista alla zia di Stato C. Non ho assolutamente fatto arrestare O. Alla fine anche lo stambecco più testardo crolla dalla sua montagna. La lista doveva servire solo in caso di bisogno, solo nel caso il segretariato si opponesse al proprio scioglimento. Ed è proprio quello che si è verificato. Infatti si oppone. Ogni tanto anche le formiche fanno un colpo di Stato. Non possiamo più tornare indietro. Qualcuno si offre volontario? Volete che lo faccia io? E va bene. Però lo farò a modo mio. Gli altri fissano davanti a sé in silenzio. Non guardano nemmeno la scena. Improvvisamente N si ricorda dell'ultima occasione ufficiale in cui il segretariato si è mostrato al popolo. Era pieno inverno e seppellivamo l'incorruttibile, uno degli ultimi grandi capi rivoluzionari. Non aveva processato l'incorruttibile come gli altri, no. La sua caduta era stata più crudele. Lo aveva fatto dichiarare malato di mente e lo aveva rinchiuso in un manicomio, dove i medici lo avevano tenuto per anni prima di concedergli di morire. Per questo i suoi funerali erano stati ancora più solenni. C'era perfino una banda militare mezzo intirizzita che suonava l'inno del partito. Sapore di sale. Membri del segretariato politico portavano la cassa funebre spalla a spalla, coperta dalla bandiera, attraverso il cimitero di Stato, passando tra lapidi coperte di neve. 12 uomini più potenti del paese incespicavano nella neve. Persino il santo del tè portava gli stivali. E la neve cadeva a grandi fiocchi da un cielo bianco. E mentre la cassa veniva calata nella fossa, F aveva sussurrato: fantastico! Ma il prossimo potrei essere io. Ma il prossimo non sarebbe stato F. Il prossimo era A. Siediti, A. Comodo? Bene. A obbedisce. La musa del partito si accende una sigaretta, si avvicina al capo del partito e gli offre due boccate. Il lustrascarpe si sfila la cintura, si mette alle spalle di A e la avvolge intorno al suo collo. F tira forte la cintura, il corpo di A si flette in uno spasmo. Subito dopo resta immobile. F ha stretto la cintura con forza straordinaria. Allenta la presa solo dopo 5 minuti. E il corpo di A cade a terra. A giace morto davanti alla finestra. Gli altri lo fissano in silenzio. D si alza e va a prendere il posto a capotavola, quello che prima era di A. Sono il nuovo presidente. E così dicendo chiama il colonnello, ma il colonnello non c'è sulla soglia. Sulla soglia c'è il ministro dell'energia atomica, che si scusa del ritardo, che ha sbagliato data. Adesso sono tutti in piedi. La seduta prosegue. Stabiliamo adesso la nuova disposizione dei posti. D si siede al posto di A, accanto a lui B e C. F si siede accanto a B ed E accanto a C. Accanto a F si siede M. Accanto a lei, sul lato destro, i marescialli H e K ed O. Di fronte a loro G, I, L, P. Poi D guarda N e gli fa un gesto di invito. Rabbrividendo, N si siede accanto a E. Era diventato il settimo per potere in tutto il paese. Fuori cominciava a nevicare.